Ma capito, che sono problemi dalla mia parte e ti ascolto muove i piedi, muove i piedi, muove i piedi. Passaggio che hai fatto era stata tribula la cosa, eh? A momenti sì, a momenti no, ti sei perso per strada. Ho ascoltato l'ultima frase che hai detto, te l'ho detto Tonino che lì era tribula e poi mi sei sparito. Tutto positivo, magari ti ascolto molto bene quando arrivi nelle tue coordinate. Bobone, se mi ascolti, dai Roger. Bobone, se mi ascolti, dai Roger. Ti ascolti a mia, ti faccio una marcia.